Tra tutte le notizie tristi che ci giungono ogni giorno dal Medio Oriente, non ce n'è una più triste, credo, di quella relativa a certe affermazioni di Shimon Peres, come la riferita in Italia al manifesto di giovedì scorso, e per quanto me ne sia accorto nessun altro. L'eminente uomo politico israeliano, trovandosi in visita ufficiale in Turchia, avrebbe avuto modo di dichiarare a un quotidiano locale in lingua inglese, il Turkish Daily News, che gli israeliani respingono con decisione i tentativi di creare un'analogia tra l'olocausto e le asserzioni armene, le Armenian Allegation, nel senso che il massacro di 1,5 milioni di armeni a opera dei turchi negli anni precedenti la prima guerra mondiale non è stato nulla di simile all'olocausto, e perché quella del popolo armeno, citazione, è stata una tragedia ma non un genocidio. Le asserzioni armene in questione, sempre secondo Peres, le sanzioni armene sono la pretesa da parte degli armeni di oggi di far uso dei termini olocausto e genocidio anche in riferimento ai propri morti d'allora, queste sanzioni vanno considerate semplicemente senza senso, meaningless. Ora è inutile dire che la distinzione è futile, la distinzione tra tragedia e olocausto, e che da Peres ci si può aspettare di tutto. Il personaggio, come gli ascoltatori probabilmente sapranno, pur essendo stato per anni un leader della sinistra laburista e pur avendo conseguito nel 1994 un premio Nobel per la pace, sia pure a mezzadria con Rabin e Arafat, è ministro degli esteri nell'attuale governo Sharon, una compagine la cui devozione alla causa della pace non sembra a prima vista così assoluta. Un giudizio sulla coerenza di questo percorso politico non spetta ovviamente a noi, ma al popolo israeliano, che in effetti sul conto di Peres è stato sempre piuttosto severo, negandogli più volte l'investitura premier e bocciandone recentemente la candidatura alla presidenza della Repubblica. Ma visto che l'individuo, nonostante le frequenti ripulse popolari, fa parte da una quarantina d'anni del ciclo di governo del suo paese, le sue dichiarazioni meritano di essere prese in una certa considerazione, specialmente quando investono, come in questo caso, delle questioni di carattere generale. Anche lui naturalmente ha i suoi motivi, La Turchia e Israele, che sono, come sappiamo, preziose pedine entrambe della strategia americana nell'area, sono stretti alleati e il punto di vista di un alleato va sempre tenuto in considerazione. Il governo turco, fedele assertore da sempre del principio per cui basta sostenere che un problema non c'è per farlo sparire, ha sempre negato l'esistenza di questioni nazionali nei suoi confini, presenti e passati. E in particolare nega che ci sia una questione curda oggi e che ci sia stata una questione armena all'inizio del secolo scorso. I curdi oggi non sono nazionalità oppressa, ma semplicemente dei turchi delle montagne in rotta con il loro governo centrale per qualche oscuro motivo. E gli armeni ieri erano soltanto dei sudditi turchi cristiani che combattevano contro la patria comune una sanguinosa guerra civile. La pretesa è un po' assurda, ma visto che i governi alleati, compreso il nostro, ci stanno, e infatti gli esuli curdi in Europa sono considerati soltanto degli immigrati turchi più o meno irregolari, e visto che i governi alleati ci stanno, i turchi continuano ad avanzarla e continueranno ad avanzarla finché gli interessi politici e militari degli stati saranno considerati più importanti dei diritti degli individui. Però sulla realtà di 1,5 milioni di armeni massacrati non si discute. E non soltanto perché oramai è scritta sui libri di storia e la loro morte fu sicuramente una tragedia, ma non nel senso a cui probabilmente pensava Peres di un evento doloroso e inspiegabile, e fu anzi il frutto di una premeditata politica di snazionalizzazione cui il governo dei giovani turchi, che nell'illusione di modernizzare il paese aveva adottato molti principi europei, compreso quello della compattezza etnica, ricorse sistematicamente a partire dal 1894. E fu un'operazione talmente ben pianificata e condotta con tanta perizia che di armeni nei territori dell'ex impero ottomano oggi praticamente non ce ne sono più. Quel popolo è sopravvissuto soltanto nelle regioni che erano state annesse alla Persia nel secolo XVII e che erano passate dalla Persia all'impero russo nel 1828, le regioni che costituiscono oggi la Repubblica d'Armenia. Agli armeni di America, che sono parecchi e discendono in gran parte da vesuvi scampati a quel massacro, e in questi giorni hanno strillato come aquile contro le dichiarazioni di Peres, il consolato israeliano di Los Angeles ha risposto con un suo comunicato che il problema dovrebbe essere discusso dagli storici e non dai politici. Probabilmente è vero. Ma è ben triste che un politico come Peres, che parla a nome di un popolo che ha conosciuto persecuzione e sterminio, neghi per motivi politici la solidarietà che cerca appunto un riconoscimento di natura storica. E che lo faccia con implicita ipocrisia in nome dei propri morti. Perché dichiarare che quelle stragi lontane rappresentano una tragedia ma non un olocausto significa pretendere, stringi stringi, che l'unico vero olocausto, l'unico genocidio che possa essere definito tale, sia stato quello che ha coinvolto la nazione ebraica. È una pretesa questa che non tutti gli ebrei né tutti gli israeliani condividono, ma che caratterizza da sempre l'ideologia dominante dello Stato di Israele. È come se l'unicità di quella terribile esperienza vada asserita e difesa a tutti i costi, perché da essa discende un'unicità altrettanto terribile del popolo che l'ha sofferta, che in nome di essa s'arroga il diritto di considerare le proprie ragioni di oggi superiore a quelle degli altri. Perché se io sono unico, per qualche motivo sono unico anche nella sofferenza, non sono certamente tenuto a confrontarmi con te. Il che lo ammetterete davvero molto triste. Naturalmente avrete capito che il discorso a questo punto non va considerato rivolto né agli armeni né ai turchi. Quelle affermazioni hanno un carattere squisitamente ideologico, l'ideologia è sempre un frutto di cattiva coscienza e sa Dio quanti motivi di cattiva coscienza hanno i dirigenti israeliani di oggi. E ci sarà bene un motivo se il processo di pace in quella regione è fermo da tanti anni.